Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Un terzo pellegrinaggio fu dedicato al luogo sacro, al Vert Paradis des Amours Enfantines. Da quelle parti eravamo passati ripetutamente nei giorni precedenti, in bicicletta, senza però mai fermarci. «Ecco là il punto esatto del muro di cinta», mi diceva adesso Micole, indicandomelo col dito, «dove lei era solita appoggiare la scala. Ed ecco le tacche, tacche, sì signore, di cui si serviva quando, e accadeva, la scala non era disponibile. Non credi che sarebbe giusto metterci una targhetta commemorativa in questo posto?» mi chiese. «Suppongo che avrai già in mente come dovrà essere l'epigrafe. Pressa poco. Per di qua, eludendo la vigilanza di due enormi cagnacci, alt, parlavi di una targhetta, ma di questo passo ho paura che avrai bisogno di un lastrone di quelli tipo bollettino della vittoria. La seconda riga è troppo lunga». Ne nacque un litigio. Io recitavo la parte del testardo interrompitore e lei, dal canto suo, alzando la voce e bamboleggiando, ad accusarmi della solita pignoleria. «Era evidente», gridava. «Io dovevo aver fiutato la sua intenzione di non mettermici nemmeno nella sua epigrafe e così, per pura gelosia, mi rifiutavo di stare ad ascoltarla». Poi ci calmammo. Prese a parlarmi una volta di più di quando lei e Alberto erano ragazzi. Se volevo proprio sapere la verità, tanto lei quanto Alberto avevano sempre provato una grande invidia nei confronti di chi, come me, aveva la fortuna di studiare in una scuola pubblica. Ci credevo? Arrivavano al punto di aspettare ogni anno con ansia l'epoca degli esami solamente per il gusto di andare anche loro a scuola. «Ma perché? Se vi piaceva tanto andare a scuola, studiavate poi in casa?» domandai. «Il papà e la mamma soprattutto, non volevano assolutamente. La mamma, lei, ha sempre avuto l'ossessione dei microbi. Diceva che le scuole sono fatte apposta per spargere le malattie più orrende e non è mai servito a niente che lo zio Giulio, ogni volta che veniva qui, cercasse di farle capire che non è vero. Lo zio Giulio la prendeva in giro, ma lui, sebbene medico, non crede che molto relativamente alla medicina. Crede anzi all'inevitabilità e all'utilità delle malattie. Figurati se poteva farsi sentire dalla mamma che dopo la disgrazia di Guido, il nostro fratellino maggiore morto prima che Alberto ed io nascessimo, nel 14, non ha messo più il naso fuori di casa, praticamente. Più tardi ci siamo un po' ribellati, si capisce. Siamo riusciti a andare tutti e due all'università e perfino in Austria a sciare un inverno, come mi pare di averti già raccontato. Ma da bambini che cosa potevamo fare? Io molto spesso scappavo. Alberto no. Lui è sempre stato di gran lunga più tranquillo di me, molto più ubbidiente. D'altra parte, un giorno che c'ero rimasta un po' troppo tempo in giro per la mura a farmi portare sulle canne delle biciclette da una banda di ragazzi con cui avevo fatto amicizia, quando sono tornata a casa li ho visti così disperati, la mamma e il papà, che da allora in poi, perché Micole è di pasta buona, lei, un vero cuor d'oro, da allora in poi mi sono decisa a farla brava e non sono scappata più. Sola recidiva, quella del giugno 29, in onor suo, egregio signore. E io che pensavo di essere stato l'unico, sospirai. Beh, se non l'unico, l'ultimo, di sicuro. E del resto, non ho mica mai invitato nessun altro a entrare in giardino. Sarà vero? Verissimo. Guardavo sempre dalla parte tua, al tempio. Quando ti voltavi indietro a parlare col papà e con Alberto, avevi occhi talmente celesti. Ti avevo dato in cuor mio perfino un soprannome. Un soprannome? E quale? Celestino. Che fece per Viltade il gran rifiuto, borbottai. Addirittura, esclamò ridendo. Ad ogni modo, credo proprio che per un certo periodo ho avuto una piccola cotta per te. E poi? Poi la vita ci ha divisi. Che idea, però, di mettere su un tempio, si può dire, tutto per voi. Cos'è stato? Sempre per paura dei microbi? Quasi, ribatté lei. Come quasi? ma non ci fu modo di indurla a confessare la verità. Sapevo bene per quale ragione il professor Ermanno nel 33 avesse chiesto di ripristinare per sé e i suoi la sinagoga spagnola. Era stata la vergognosa infornata del decennale, vergognosa e grottesca a deciderlo. Lei però sosteneva che determinante, ancora una volta, era stata la volontà della mamma. Gli Herrera a Venezia appartenevano a scuola spagnola. La mamma, la nonna Regina e gli zii Giulio e Federico ci avevano sempre tenuto moltissimo alle tradizioni di famiglia. E allora il papà, per far contenta la mamma... «Ma adesso, scusa, perché siete rientrati a sinagoga italiana?» obiettai. «Io non c'ero, al tempio, la sera di Rosh Hashanah. Non metto piede al tempio da almeno 3 anni. Però mio padre, che c'era, mi ha raccontato la scena per filo e per segno». «Oh, non tema, la sua assenza è stata molto notata, signor libero pensatore», rispose. «Anche da me. Torno seria, e poi, cosa vuoi? Ormai siamo tutti quanti imbarcati sulla stessa barca. Al punto in cui ci troviamo, stare ancora lì a fare tante distinzioni, trovo anch'io che sarebbe stato piuttosto ridicolo». Un altro giorno, l'ultimo, si era messo a piovere, e mentre gli altri riparavano nella hütte a giocare a ramino e a ping pong, noi due, incuranti di inzupparci, traversammo correndo mezzo parco per andare a rifugiarci nella rimessa. «La rimessa attualmente funzionava soltanto da rimessa», mi aveva detto Micol. Un tempo, tuttavia, metà di essa era stata attrezzata a palestra, con pertiche, funi, asse d'equilibrio, anelli, spalliera svedese, eccetera. E questo al solo scopo che lei e Alberto potessero presentarsi ben preparati anche all'annuale esame di educazione fisica. Non erano certo lezioni molto serie quelle che il professor Anacleto Zaccarini, da tempo in pensione e più che ottantenne, figurarsi, impartiva loro una volta alla settimana. Divertenti però, sì, forse le più divertenti di tutte. Lei, Micol, non si scordava mai di portare in palestra una bottiglia di vino di Bosco. E il vecchio Zaccarini, diventando, dal rosso di naso e di guance che era normalmente, via via più paonazzo, se la scolava pian piano fino all'ultima goccia. Certe sere d'inverno, quando se ne andava, pareva addirittura che emanasse luce propria. Si trattava di una costruzione di mattoni bruni, bassa e lunga, con 2 finestre laterali difese da robuste inferriate, col tetto spiovente coperto di tegole e le pareti esterne quasi totalmente nascoste dall'edera. Non lontana dal fienile dei Perotti e dal vitreo parallelepipedo di una serra, vi si accedeva attraverso un ampio portone accuratamente verniciato di verde che guardava dalla parte opposta alla mura degli Angeli, in direzione della casa padronale. Restammo un po' sulla soglia, addossati al portone. Pioveva a dirotto, a strisce d'acqua oblique e lunghissime, sui prati, sulle grandi masse verde degli alberi, su tutto. Faceva freddo. Battendo i denti, guardavamo entrambi dinanzi a noi. L'incantesimo, a cui fino allora era stata sospesa la stagione, si era rotto, irreparabilmente. «Vogliamo entrare?» proposi alla fine. «Dentro farà più caldo». All'interno del vasto stanzone, in fondo al quale, nella penombra, tralucevano le sommità di 2 lustre bionde pertiche da palestra che arrivavano fino al soffitto, aleggiava un odore strano, misto di benzina e olio lubrificante, vecchia polvere, agrumi. «L'odore era proprio buono», disse subito Micol, accorgendosi che tiravo su col naso, incuriosito. «Anche a lei piaceva molto». E mi indicò, accostata a una delle pareti laterali, una specie di alta scaffalatura di legno scuro, gremita di grossi frutti gialli e rotondi, più grossi degli aranci e dei limoni, che prima d'allora non avevo mai visto. «Pompelmi, messi lì a stagionare», mi spiegò, «prodotti in serra. Non ne avevo mai mangiato?» domandò poi, prendendone uno e offrendomelo da fiutare. Peccato che lei non avesse lì un coltello per tagliarlo in 2 emisferi. Il sapore del succo era ibrido, assomigliava a quello dell'arancio e a quello del limone, con, in più, una punta d'amaro del tutto particolare. Il centro della rimessa era occupato da due vetture affiancate, una lunga di Lambda grigia e una carrozza blu, le cui stanghe rialzate risultavano appena più basse delle pertiche retrostanti. «Ormai della carrozza non ce ne serviamo più», diceva intanto Micol. «Le poche volte che il papà deve andare in campagna si fa accompagnare con la macchina. E la stessa cosa facciamo io e Alberto quando ci tocca di partire, lui per Milano, io per Venezia. È l'eterno Perotti a portarci alla stazione. A saper guidare in casa non ci sono che lui, guida malissimo, e Alberto. Io no, non ho ancora preso la patente. Comunque la prenderò. Bisogna proprio che la primavera prossima mi decida, purché non tirino fuori difficoltà anche per questo. Il guaio è che beve talmente questo macchinone». Quindi, avvicinandosi alla carrozza, dall'aspetto non meno lustro ed efficiente dell'automobile, «La riconosci?» chiese. Aprì uno sportello, montò, sedette. Infine, battendo con la mano sul panno del sedile accanto a lei, mi invitò a fare lo stesso. Salii e sedetti a mia volta, alla sua sinistra. E mi ero appena accomodato che, ruotando lentamente sui cardini per pura forza d'inerzia, lo sportello si chiuse da solo con uno schiocco secco e preciso da tagliola. Adesso lo scrosciare della pioggia sopra il tetto della rimessa aveva cessato di essere udibile. Pareva davvero di trovarsi dentro un salottino, un piccolo salotto soffocante. «Come la tenete bene?» dissi, senza riuscire a padroneggiare un'improvvisa emozione che si rifletté in un lieve tremito della voce. «Sembra ancora nuova. Non ci mancano che i fiori nel vaso». «Oh, per i fiori, Perotti mette anche quelli, quando esce insieme alla nonna. Dunque, la adoperate ancora?» «Non più di 2 o 3 volte all'anno, e soltanto per fare qualche giro in giardino». «E il cavallo? È sempre lo stesso?» «Sempre il solito Star, ha 22 anni. Non l'hai veduto l'altro giorno, in fondo alla stalla? È ormai mezzo cieco, ma attaccato qui fa ancora una pessima figura». Scoppiò a ridere, scuotendo la testa. «Perotti ha una vera mania per questa carrozza», continuò amaramente. «Ed è soprattutto per far piacere a lui. Odia e disprezza le automobili. Non puoi credere in che misura, se di tanto in tanto gli diamo da portare a spasso la nonna su e giù per i viali. Ogni 10-15 giorni viene qua con secchi d'acqua, spugne, pelli di daino, battipanni, ed ecco spiegato il miracolo. Ecco perché la carrozza, meglio se vista tra il lusco e il brusco, riesce tuttora a darla abbastanza ad intendere». «Abbastanza?» protestai. «Se sembra nuova di zecca», sbuffò annoiata. «Non dire stupidaggini, per favore». Mossa da un impulso imprevedibile, si era scostata bruscamente da me, rannicchiandosi nel suo angolo. Ora guardava davanti a sé, corrugando le sopracciglia, i tratti del viso affilati da un'espressione di strano livore. Pareva improvvisamente invecchiata di 10 anni. Rimanemmo qualche attimo così, in silenzio. Poi, senza cambiare posizione, le braccia raccolte attorno alle ginocchia abbronzate, come se sentisse un gran freddo, era in calzoncini corti e maglietta di filo, del resto, con un pullover annodato al collo per le maniche, Micol riprese a parlare. «Ha voglia, Perotti», diceva, «di spendere per questa specie di penoso rottame tanto tempo e tanto sugo di gomiti. No, da retta a me. Qui, in questa semi-oscurità, uno può anche mettersi a gridare al miracolo. Ma fuori, alla luce naturale, non c'è niente da fare. Infinite magagnette saltano subito all'occhio. La vernice qua e là è partita. I raggi e i mozzi delle ruote sono tutti un tarlo. Il panno di questo sedile, non puoi rendertene conto adesso, ma te lo garantisco io, è ridotto in certi punti a un'autentica tela di ragno. Per cui mi domando, a che scopo tutta la struma di Perotti? Ne vale la pena? Lui, poveretto, vorrebbe strappare al papà il permesso di riverniciare tutto quanto, restaurando e impastocchiando a suo piacere, ma il papà nicchia al solito e non si decide. Tacque. Si mosse appena. «Guarda invece là il Sandolino», proseguì, e mi indicava nel mentre, attraverso il cristallo del finestrino che i nostri fiati cominciavano ad annebbiare, una bigia sagoma oblunga e scheletrica accostata alla parete opposta a quella occupata dallo scaffale dei pompelmi. «Guarda invece là il Sandolino e ammira, ti prego, con quanta onestà, dignità e coraggio morale lui ha saputo trarre dalla propria totale perdita di funzione tutte le conseguenze che doveva. Anche le cose muoiono, caro mio. E allora, se anche loro devono morire, tant'è, meglio lasciarle andare. C'è molto più stile, oltretutto. Ti pare?» Infinite volte, nel corso dell'inverno, della primavera e dell'estate che seguirono, tornai indietro a ciò che tra Micol e me era accaduto, o meglio, non accaduto, dentro la carrozza prediletta dal vecchio Perotti. Se quel pomeriggio di pioggia nel quale era terminata d'un tratto la luminosa estate di San Martino del 38, io fossi riuscito perlomeno a parlarle, mi dicevo con amarezza, forse le cose tra noi sarebbero poi andate diversamente da come erano andate. Parlarle, baciarla, era allora, quando tutto era ancora possibile, non cessavo di ripetermi che avrei dovuto farlo. E dimenticavo di chiedermi l'essenziale. Se in quel momento supremo, unico, irrevocabile, un momento che forse aveva deciso della mia e della sua vita, io fossi stato davvero in grado di tentare un gesto, una parola qualsiasi. Lo sapevo già allora, per esempio, di essermi innamorato veramente. La realtà era stata questa, invece, che ancora non lo sapevo. Non l'avevo saputo allora e non l'avevo saputo poi, per altre 2 settimane almeno, quando cioè il brutto tempo, oramai stabile, aveva disperso da un pezzo la nostra occasionale compagnia. Ricordo bene. La pioggia insistente, senza interruzione per giorni e giorni, e dopo sarebbe stato inverno, il rigido, cupo inverno della Valpadana, aveva subito reso improbabile ogni ulteriore frequentazione del giardino. Eppure, nonostante il mutamento della stagione, tutto era continuato a procedere in maniera tale da illudermi che nulla, in sostanza, fosse cambiato. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.